Grazie Mirko, pastore, fratello. Che bello stare qui, amen? È bellissimo stare con voi, è bellissimo stare insieme, vivere tutto questo insieme. Sei felice? Sei felice di essere qui? Perché sei qui? Perché sei qui? Non lo so, a me piace tantissimo stare qui con voi, perché come quando sono con voi e vivo il mio Dio, non lo faccio in nessun altro posto, in nessun'altra occasione. Quando siamo insieme come chiesa, io vivo il mio Dio in maniera più pesante, nel senso positivo della cosa, proprio la sua presenza è più viva, e ringrazio tutti quanti voi per questo, perché siamo corpo, e quando siamo corpo e ci uniamo insieme, il nostro capo viene e regna nel nostro mezzo, ed è bellissimo stare in sua presenza, ed è bellissimo poter di nuovo andare alla sua parola in uno dei salmi, ne abbiamo guardati tanti. Questa sera guarderemo a un salmo un tantino diverso. Vi sto preparando al tipo di salmo, quindi poi dopo non potete venire a dirmi Gianlu, però no, vi ho preparato, è un salmo di tipo diverso. A dire il vero, di questo tipo di salmi ce ne sono molti o pochi nella parola, nel libro dei salmi, in tutto il libro dei salmi. Ce ne sono forse 3-4, ci sono alcune parti che sono profetiche, perché è un salmo profetico questo, però sono pochi questi salmi. E il Salmo 50 sicuramente è un salmo profetico. Ci racconta, no, la profezia, un oracolo, che cosa fa? Ci racconta qualcosa che avverrà, qualcosa che sta per avvenire nel futuro. E questo salmo è molto particolare perché non è solo una profezia, cioè che ci racconta qualcosa che avverrà, ma ci racconta, o meglio, ci avverte di qualcosa, è un avvertimento, è una profezia di quello che avverrà, e ci vuol dire state attenti a questo, state attenti perché è molto importante, fa la differenza, può fare la differenza nella vostra vita. Quindi la mia preghiera è che attraverso questo salmo possiamo riaccendere il nostro cuore, ravvivare il nostro cuore e unirlo, farlo avvicinare di più al cuore di Dio che emerge da questo salmo. Quindi leggiamolo insieme, è un po' lunghetto, però concentriamoci su ogni suo pezzo perché è prezioso. Salmo 50, salmo di Asaf. Il Dio onnipotente, l'Eterno, ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente, da Sion la perfezione della bellezza. Dio risplende. Il nostro Dio verrà e non se ne starà in silenzio. Lo precederà un fuoco divorante e intorno a lui ci sarà grande tempesta. Egli convocherà i cieli di sopra e la terra per giudicare il suo popolo. E dirà: radunatemi i miei santi che hanno fatto un patto con me mediante il sacrificio. E i cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso è il giudice. Ascolta, o popolo mio, e io parlerò. Ascolta, o Israele, e io testimonierò contro di te. Sono Dio, il tuo Dio. Non ti riprendo per i tuoi sacrifici, né per i tuoi olocausti che mi stanno sempre davanti. Non prenderò alcun torello dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Miei, infatti, sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli dei monti e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avessi fame, non te lo direi, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Mangio forse io carne di tori o bevo sangue di capri? Offri a Dio sacrifici di ringraziamento, di lode, e adempi i tuoi voti fatti all'Altissimo. Invocami nel giorno dell'avversità e io ti libererò e tu mi glorificherai. Ma l'empio all'empio Dio dice: che diritto hai? Che diritto hai di elencare i miei statuti e di avere sulle tue labbra il mio patto? Tu che detesti la correzione e getti le mie parole dietro le spalle. Se vedi un ladro, ti metti con lui volentieri e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Tu siedi, parli contro il tuo fratello e diffami il figlio di tua madre. Tu hai fatto queste cose e io ho taciuto. Tu hai pensato che io fossi del simile tutto a te. Ma io ti risponderò e ti metterò ogni cosa davanti agli occhi. Ora comprendete voi questo, che dimenticate Dio, comprendete questo, perché io non vi faccia brandelli senza che alcuno vi liberi. Chi offre sacrifici di ringraziamento e di lode mi glorifica, e chi cammina per la retta via, a chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. E non mi guardate così, non l'ho scritto io. L'ha scritto il Signore con unzione dello Spirito, quindi non mi guardate, ma vi ho preparato, è un salmo diverso, vi ho preparato. I primi sei versi dipingono l'immagine o inscenano la scena, appunto, mettono su quello che impostano lo scenario, quello che sarà. E chi è? C'è Dio, ben tre nomi di Dio sono usati qui. Qui in italiano è Dio Onnipotente l'Eterno, in ebraico è El Elohim Yahweh. Tutti e tre i suoi nomi vengono usati per impostare la scena. E chi è questo Dio altissimo, glorioso, tremendo, che quando parla tuona, che quando dice qualcosa accadono fulmini? È il giudice, è il grande giudice, e sta entrando nella sua corte. Chiama dei testimoni, chiama i cieli e la terra a testimoniare, chiama tutti gli esseri viventi a testimoniare, a venire e testimoniare. C'è scritto, proprio come abbiamo cantato prima, non so se ve ne siete accorti, prima abbiamo cantato e le stelle canteranno. Qui c'è scritto i cieli proclameranno la tua giustizia. No, non so che cosa significa questo, non so se è solo l'atmosfera, che, no? I cieli, il cielo blu che vediamo con le nuvole, o sono i cieli, i pianeti, le stelle, i buchi neri, le galassie. In qualche modo i cieli proclameranno la sua giustizia, in qualche modo ci diranno: Dio è giusto, giusto, giusto, perché Lui è giudice. Questa è la scena. Questo è il nostro grande giudice, non un Dio Babbo Natale, ma un Dio giudice e tremendo, onnipotente, che ha ogni cosa sotto il suo controllo. Ma chi è l'imputato? No? C'è il giudice, ci sono i testimoni. Chi è l'imputato? Chi è quello che ha colpa e deve presentarsi alla sbarra? Chi è quello che ha colpa e deve presentarsi a giudizio? C'è scritto nel verso 4: il mio popolo, i miei, quelli che mi conoscono, quelli che io amo, i miei sono gli imputati. In 1 Pietro 4,17 c'è scritto che il giudizio deve iniziare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, poi prosegue il verso, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo? È un'immagine terribile. Non è il Salmo 23, l'Eterno il mio pastore, verde paschi e quant'altro. È un'immagine tremenda, è un'immagine che mette paura, è un'immagine che mette timore. Dio è il grande giudice e sta per giudicarci. Noi siamo alla sbarra. Questo salmo è stato scritto, il Signore ce lo ha regalato, ce lo ha donato, questa profezia è stata proclamata perché un giorno questo avverrà, per incutere timore in noi, per incutere un santo timore in noi. E quindi la mia preghiera è nel leggere, nello studiare, nel pregare, nell'imparare da questo salmo, che è sua parola, che cambia e trasforma i nostri cuori, noi possiamo tremare. Fratelli e sorelle, lasciamoci scuotere da questo salmo e che ci possa far tremare come una foglia, affinché possiamo capire le fondamenta su cui poggiamo, affinché possiamo capire se le fondamenta su cui ci poggiamo sono solide o fragili. Lasciamoci scuotere, lasciamoci prendere a scossoni per farci scrollare di dosso qualsiasi peccato, qualsiasi compromesso che non possono stare davanti al giudice. Questa è l'immagine e la mia preghiera questa sera è che possano scuotere i nostri cuori, come dicevo prima, che questo possa scuotere i nostri cuori affinché possiamo comprendere, affinché possiamo analizzare il nostro più intimo, la nostra anima, il nostro più spazietto, angolino profondo, e vedere se è unito al cuore di Dio, se è in sintonia con il suo di cuore. Quali sono gli imputati che devono presentarsi alla sbarra? Chi sono gli imputati che devono ricevere il suo giudizio? I primi, a me piace chiamarli i credenti meccanici o gli membri del suo popolo che sono meccanici. Perché dico questo? Perché, guardate, Dio dice, e questo dal verso 7 al verso 13 passa questo primo imputato, e dice: io non ti riprenderò per i tuoi sacrifici, non ti riprenderò per il fatto che li fai, perché è giusto che tu li faccia, perché sono stato io che ti ho comandato di farlo. Non giudico che lo fai, ti giudico per come lo fai. Sapete, questi sacrifici erano dei sacrifici, si chiamano sacrifici di ringraziamento. In altre parole, erano dei sacrifici che Dio aveva chiesto al suo popolo di fare in ringraziamento. Erano particolari perché la carne di questi sacrifici, sapete, no, che il popolo di Israele nel Vecchio Patto, nel Vecchio Testamento, era chiamato a sacrificare dei sacrifici, alcuni per esempio per l'espiazione dei peccati. Quei sacrifici venivano completamente consumati sulla fiamma. Questi invece, questi sacrifici di ringraziamento, no. Questi sacrifici invece venivano cucinati sul fuoco, l'odore soave andava a Dio come ringraziamento e poi chi li offriva doveva partecipare a questo sacrificio. Come? Mangiandone. In altre parole, sapete che cosa stava chiedendo il Signore al suo popolo? Gli stava invitando, stava dicendo: venite, stiamo insieme, uniamoci a tavola, condividiamo questo pasto insieme, voglio stare con voi. Voi venite, mi ringraziate e io vengo a stare con voi, a condividere questo pasto insieme in famiglia. Di questo il popolo aveva fatto tutt'altra cosa. Aveva fatto una cosa meccanica, cioè senza pensarci, senza rifletterci, senza cuore, facevano qualcosa, cioè offrivano questo sacrificio per ottenere qualcosa in scambio, per ottenere un piacere, per acquietare, no, se Dio si era arrabbiato che ho fatto qualcosina, allora a mia moglie do questo, vede che lo ringrazio e sto a posto. Sapete, gli altri popoli intorno a Israele dovevano fare così, dovevano offrire sacrifici ai loro dii perché avevano fame, quindi gli dovevano dare da mangiare, se erano arrabbiati li dovevano acquietare, e Israele ha iniziato a imitare loro, di una cosa bella, di una cosa preziosa, di una cosa intima, di una cosa relazionale. Il popolo di Israele ne ha fatto una cosa meccanica, fredda e sconnessa. Dio non giudica il fatto che stanno dando i sacrifici, ma come li stanno dando. Dio vuole il loro cuore, vuole intimità, vuole stare con loro, stare a quel tavolo insieme per avere comunione e amore l'uno con l'altro. E invece il popolo ha ghiacciato il suo cuore e l'ha fatto in maniera meccanica. Il Signore dice: questo è sbagliato. Io ho bisogno delle vostre cose. Non prenderò tori da voi, non prenderò pecore da voi. Perché? Perché prima di tutto io sono Dio e non ho fame. E se dovessi aver fame, i vitelli su mille monti sono miei. Alla convinzione del popolo di Israele che stessero offrendo qualcosa di loro a Dio, Dio dice: mio, è già mio, tutto mi appartiene. Non me ne faccio niente dei vostri sacrifici, non me ne faccio niente dei vostri agnelli, non me ne faccio niente dei vostri buoi, non me ne faccio niente, io voglio il vostro cuore. Io voglio il vostro amore, io voglio stare con voi. Questo io cerco. È quello che Gesù ha detto nel Nuovo Testamento, anche, ricordate, con la donna al pozzo, la samaritana, ha detto che il Signore cerca ancora, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Il cuore di Dio non è cambiato. Il cuore di Dio non cambia vecchio patto, nuovo patto. Il cuore di Dio è sempre lo stesso. Lui vuole il tuo cuore e il mio cuore. Per questo ha detto al popolo di Israele: non me ne faccio niente dei tuoi agnelli, non me ne faccio niente dei tuoi buoi se non ho il tuo cuore, perché è quello che voglio. Dio, come dicevo prima, non è un Dio Babbo Natale, qui, no? Viene dipinto in maniera completamente diversa. Questa è la verità del nostro Dio. È un Dio glorioso e tremendo. Fratelli e sorelle, Lui si merita il tuo e il mio cuore. Lui se lo merita. Lui lo pretende. Lui pretende non una parte del tuo cuore, non il tuo cuore della domenica, non quando ti ricordi. Lui pretende tutto il tuo cuore al 100%. Ma sapete, c'è una cosa meravigliosa, che è molto di più. Il Signore merita, il Signore pretende, ma il Signore desidera. Il Signore desidera il tuo cuore. Guardate, il Signore non ha bisogno di nulla. Nella perfetta Trinità che è, non è solo. È tre in uno, sta bene così come sta, è stato bene così come stava da eternità passata. Perché ha creato? Perché è sceso per salvarci? Perché grida al suo popolo con questa profezia e lo fa ancora oggi? Perché desidera, perché lui ha piacere a farlo. Perché lui desidera amarti ed essere amato da te. Perché lui desidera un'unione con te. Questo è il mio Dio, questo è il tuo Dio e lui desidera. Come sei qui oggi? Perché? Perché sei venuto qui? Perché continui a venire domenica dopo domenica in chiesa? Perché leggi questo libro? O meglio, come lo leggi questo libro? Quando ti approcci in preghiera, che la mia preghiera questa sera per tutti quanti noi, che da stasera in poi, quando ci accingiamo a pregare al nostro Dio, non possiamo mai più farlo meccanicamente. Grazie Gesù per questo giorno. Amen. Stiamo andando davanti al Dio tremendo, glorioso, che ama e vuole amarci. Non possiamo farlo in maniera meccanica, non possiamo farlo in maniera ghiacciata, non possiamo farlo in maniera vuota, perché il Signore non se ne fa niente di tutto questo. Non se ne fa niente del tuo servizio se è per accattivarti qualcosa da Lui. Non se ne fa niente, Lui vuole il tuo cuore. Anche guardando a Ecclesia, a questa settimana, il Signore prima e più di tutto vuole il tuo cuore. Vuole tutto il tuo cuore, non solo parte di questo. Dov'è il tuo cuore questa sera? Che il Salmo 50 ci possa scuotere. Questo è il primo imputato, ce n'è un altro. Non continuate a guardarmi così, che veramente fate paura, come dice il pastore. Non l'ho scritto io, l'ha scritto il Signore, il Salmo, ed è bellissimo. C'è un altro imputato, che a me piace chiamarlo il simulatore. L'imputato simulatore. Che cos'è un simulatore? Il simulatore è una persona o qualcosa che cerca di presentare o dimostrare qualcosa che in realtà non è, no? Cerca di fare qualcosa o presentarsi in un modo che non è la verità, no? Per esempio, il simulatore di volo, che cos'è? È uno scatolo che tu entri con tutti i video, con tutti i suoni, con tutti i movimenti, e ti fa sembrare che stai volando, ma in realtà stai volando? No. Questo è il simulatore. E chi sono questi simulatori, questi credenti simulatori? Sono questi credenti che il Signore giudica. Perché? Perché dice: voi sapete elencare benissimo i miei statuti, avete sulle vostre labbra il mio patto. Voi a sembrare siete bravissimi, siete dei credenti modello, però guardandomi negli occhi, mi voltate le spalle. A parlare, ad apparire, siete bravissimi, ma col vostro cuore vi allontanate da me. Vi allontanate dalla mia correzione, c'è scritto nel verso 17, vi allontanate dalle mie parole. Da parole come queste, come il Salmo 50, vi allontanate da queste. Sapete, il Signore ha ripetuto lo stesso giudizio, lo stesso avvertimento attraverso il profeta Geremia in un'altra profezia, in Geremia 32. Sentite cosa c'è scritto. Mi hanno, sempre parlando del suo popolo, qui è Dio che parla, mi hanno voltato non la faccia, mi hanno voltato non la faccia, ma le spalle, sebbene io li abbia istruiti continuamente, fin dalla mattina, essi non hanno dato ascolto per ricevere la correzione. E questo mi ricorda qualcosa che mi accadeva quando ero bambino, perché io sono stato malvagio fin dalla nascita. E più o meno avevo 3-4 anni ed ero proprio, com'è che è scritto? Empio, ero proprio empio, no? Verso 16, empio, ero proprio empio, perché andavo in giardino dei miei e mamma c'aveva dei gerani bellissimi e a me piaceva fare una cosa, tirarli. Vedete quanto empio e malvagio ero io, no? Li vedevo e pa! E li volevo tirare. E mamma ovviamente non voleva perché erano bellissimi e voleva che rimanessero intatti. Allora, poi dopo un po', ogni volta che scendevo, immagino, perché ero proprio piccolo, me l'ha raccontata lei questa storia, quando entravo in giardino, immagino lei mi seguisse, no? E quando stavo per tirare il fiore, mia mamma, Gianluca, no! E allora io che facevo? La guardavo, no? La fissavo negli occhi così. E poi mamma mi dice, la continuavo a guardare in faccia, ma voltavo le spalle e allungavo la mano, convinto che lei non mi vedesse. E invece lei mi vedeva. Questo è quello che il Signore sta dicendo al suo popolo. Voi mi guardate in faccia, a sembrare e a dire e a fare e a farvi sembrare belli e buoni e giusti e precisi. Siete bravissimi, mi continuate a fissare negli occhi, ma con le spalle vi girate. Con il vostro cuore andate da un'altra parte, non ascoltate la mia correzione, non ascoltate le mie parole. I versi dopo, i versi dal 18 al 20, elencano 3 dei 10 comandamenti. Elenca il non dire falsa testimonianza, elenca l'adulterio e il non rubare. Questo a simbolo di tutti e 10, ne ha preso 10 giusto così, ad esempio, diciamo così. E 3 di questi esempi ci dicono che l'essere compagno di chi ruba fa di noi un ladro, un peccatore. L'essere compagno di adultero rende noi adulteri. Dire falsa testimonianza contro il nostro fratello, diffamare il nostro fratello, ci macchia di peccato. Se devo essere sincero, posso essere sincero con voi. Io prego che il Salmo 50 ci metta di fronte a questi due imputati e ci faccia tremare il nostro cuore, faccia capire ai nostri cuori che imputato sono io. E se posso essere sincero con voi, mi riscopro molto più come il secondo imputato. Guardate, non ho mai tradito mia moglie, mai. Però quanto spesso hanno vagato i miei occhi e mi hanno reso un adultero. Non ho mai fatto una rapina a mano armata, ve lo prometto, mai. Però quanto spesso ho lasciato stare, tipo non mi danno lo scontrino, non è che non me ne sono accorto, ho fatto finta di non accorgermene e non ho detto nulla. Che diritto ho? Che diritto ho a stare qui in piedi e predicare? Che diritto ho a pregare al Dio Altissimo? Che diritto ho a chiamarmi credente? Che diritto ho a chiamarmi cristiano? Fratelli e sorelle, che diritto abbiamo? Questo è quello che il Salmo grida. Che diritto hai a chiamarti credente, a chiamarti cristiano? Maschietti, fratelli, se facciamo vagare i nostri occhi e guardare cose che non vanno guardate, che diritto abbiamo a predicare lì fuori o qua dentro? Che diritto hai? Sorelle, femminucce in mezzo a noi, che diritto abbiamo se quello di cui ci preoccupiamo prima e più di tutto è il nostro aspetto esteriore per attrarre attenzioni sbagliate? Quando uno Pietro vi chiama a rendere belli i vostri cuori, che diritto abbiamo? Che diritto abbiamo? Il Signore vuole un cuore completamente arreso a Lui, in tutto e per tutto. Il Signore vuole il tuo cuore, non se ne fa niente dei simulatori, non se ne fa niente delle persone che qui dentro si comportano in un modo e là fuori in un altro. E fratelli e sorelle, lo sto dicendo prima e più di tutto di me stesso. Che diritto abbiamo? Che questo salmo possa scuoterci e possa far riconsiderare i nostri cuori, e che i nostri cuori possiamo portarli a Lui in arresa e dire: Signore, cambiali, abbiamo bisogno di Te. Signore, ci arrendiamo a Te. Signore, ci arrendiamo a Te. Abbiamo bisogno di Te. Questi sono i due imputati che vengono giudicati molto severamente nel Salmo 50. Sentite quello che dice al verso 22. L'abbiamo letto. Ora comprendete questo, voi che dimenticate Dio, perché io non vi faccia a brandelli senza che alcuno vi liberi. Il Signore farà brandelli il primo imputato come il secondo. Arrendiamoci a Lui. Il Signore spezzerà, sminuzzerà il primo come il secondo. Esaminiamo i nostri cuori e arrendiamoli davanti a Lui. Però, e meno male che non l'ho scritto io il Salmo, perché forse magari io finivo qui. Il Salmo non ci lascia qui. Il Salmo ci dà una speranza. Il Salmo ci predica il Vangelo, fratelli e sorelle. Il cuore di Dio non cambia mai, l'ho già detto. Il Vangelo, la buona notizia di salvezza in Dio e Dio soltanto, non è una cosa nuova del Nuovo Testamento. E questa la bellezza della sua parola. Lo troviamo in questo Salmo. C'è speranza, c'è una buona notizia per noi. Se sei il primo o il secondo imputato, se sei parte della sua famiglia o non ancora, e questo tipo di messaggio lo senti per la prima volta questa sera. C'è speranza per te, c'è un messaggio di vita. E qual è? Lo dice due volte, non una, due volte. Tutte le altre cose magari le dice solo una volta, ma questa cosa la dice due volte, verso 14 e verso 23. Offri a Dio sacrifici di ringraziamento. E Lui ti libererà. Verso 23, a chi offre sacrifici di ringraziamento, io mostrerò la salvezza. Allora, a questo punto, questi sacrifici di ringraziamento diventano veramente importanti capire cosa sono. O sbaglio? Io voglio sapere che cos'è questo sacrificio di ringraziamento per essere liberato, per essere salvato, per essere graziato e non stare più alla sbarra da imputato, ma essere scagionato. Che cosa devo fare? Offrire sacrifici di ringraziamento. Sapete, la parola ringraziamento qui nel Vecchio Testamento, nell'ebraico, descrive... proprio come immagine descrive a ringraziamento una persona con le mani aperte, rivolte a Dio in questo caso, uno che ringrazia, uno che adora Dio, lo loda per quello che Lui è, una persona che riconosce. Questo è quando una persona fa così con le mani, no? Mani in alto. Sì, sono io. Riconosce, questo è il senso della parola. Che cos'è questo sacrificio di ringraziamento? Signore, riconosco. Riconosco che sono io. Riconosco che io sono l'imputato. Io ho bisogno di... Riconosco che ho bisogno di te. Vedete, c'è scritto nel Salmo che lui non corregge, non giudica chi sbaglia, ma chi detesta, versetto 17, chi detesta la sua correzione. Sapete qual è il sacrificio di ringraziamento? È dire, sì Signore, ho sbagliato, io abbraccio la tua correzione. Sì Signore, ammetto. Sì Signore, riconosco. Sì Signore, ho bisogno di te. Riconosco, riconosco chi io sono, il mio profondo peccato. Riconosco chi tu sei, che non sei un Dio Babbo Natale, che sei il Dio altissimo, tremendo, grande, grande in amore e in misericordia. E per questo ti rispetto per quello che sei, non per quello che credo io. Ti riconosco. Secondo me ci sono altre due cose che ci dicono che cos'è questo sacrificio di ringraziamento e adorazione. Una è descritta nel versetto 15. C'è scritto: invocami nel giorno dell'avversità e io ti libererò. In altre parole, che cos'è? Che cos'è? Nel giorno, perché è nel giorno della difficoltà che il vero cuore esce fuori. È nel giorno della difficoltà che le cose diventano vere per quello che sono. Nel giorno della difficoltà è più difficile fare i simulatori. Nel giorno delle difficoltà è più difficile fare i meccanici. Per questo magari smettiamo di venire qui in chiesa o smettiamo di leggere. Perché nel giorno delle difficoltà la cosa diventa vera. O ci credi veramente, o il tuo cuore è veramente unito col suo, o emerge il fatto che siamo o meccanici o simulatori. Che cos'è questo sacrificio di ringraziamento, di lode? È nel giorno della difficoltà andare a Lui e dire: Signore sì, io ho bisogno di te, mi arrendo a te. Signore sì, io voglio te più di un'altra, e non meccanicamente. E non a fare finta, ti voglio davvero. Adesso io ti ho bisogno. Adesso io ti ho bisogno. Adesso il mio cuore vuole te. Con tutto se stesso, con tutta la forza, con tutta l'anima, con tutta la mente. Per ricordare un altro verso. Adesso io voglio te. Il sacrificio di ringraziamento, di adorazione è invocarlo, andare a Lui nel giorno della difficoltà. E almeno un'altra cosa è questo sacrificio di ringraziamento, ed è scritto nel versetto 23, perché nel versetto 23, traducendolo in maniera un po' più letterale, c'è scritto: a chi cammina per la giusta via, che lo porterà a salvezza. In altre parole, che cosa significa questa cosa? Cioè, a chi si incammina, si incanala nella giusta via, io gli mostrerò che quella via porta a salvezza. Vedete, noi non abbiamo niente da dare a Dio. E questa la cosa del popolo di Israele che faceva arrabbiare Dio. Voi avete da donare a me qualcosa? No, io ho tutto da donare a voi. Voi incanalatevi per questa strada, incanalatevi per questa strada, mettetevi in questa strada e voi non ve ne accorgerete neanche, ma io sarò lì a prendervi per mano, a io darvi qualcosa. Che cosa? La salvezza. Il sacrificio di ringraziamento è non guardarlo in faccia e voltargli le spalle, soprattutto quando lui ci riprende. Soprattutto quando la sua parola viene a noi in questo modo. La cosa migliore che possiamo fare è: sì Signore, io ho bisogno di te, mi arrendo a te. Sì Signore, io voglio cambiare con tutto il mio cuore, con tutta la mia forza. Voglio smettere di farlo in maniera meccanica e vuota. Voglio smettere di simulare, far finta di fare qualcosa, di essere qualcosa che non sono. Io voglio donarmi tutto il mio cuore. Su questa strada io mi voglio mettere. e su quella strada il Signore ti incontrerà, perché ti ci ha portato Lui su quella strada e ti salverà. Che il Salmo possa scuoterci, che il Salmo possa farci vivere questo santo timore. Ma fratelli e sorelle, che questo Salmo, perché è pieno di speranza, è pieno di salvezza, è pieno di Vangelo, non possa farci scappare da Lui, ma scappare verso di Lui, perché Lui è la nostra salvezza, Lui è la nostra speranza, Lui è colui che ci grida questo Salmo, Lui che ci dà questa profezia di avvertimento, perché ci ama. Se fosse stato un Dio al quale non gli interessava nulla di noi, non ce l'avrebbe neanche dato il Salmo 50. Solo averlo il Salmo 50 ci fa vedere del suo amore e di quanto Lui vuole noi, vuole tutto il tuo cuore, tutto il tuo cuore. Ci alziamo in piedi. Sapete, la Santa Cena è una delle tante cose che noi possiamo vivere meccanicamente. È una cosa che possiamo fare perché siamo abituati a farla, o è una cosa che possiamo usare per dire: Signore, vedi, io faccio la Santa Cena. Ho fatto questa cosa, io credo in te, mo sto a posto, vero? Sto a posto, Signore. Non se ne fa niente, il Signore vuole il tuo cuore. E allora questa sera, con i nostri occhi chiusi, esaminiamo i nostri cuori. Questo è quello che la Santa Cena ci chiama a fare. Che tipo di imputato sei? Prendi quella tua condanna e fagliela vedere. Prendi quella tua condanna e dici: Signore, io la rendo a te. So che Cristo Gesù ha pagato per quella condanna. Per piacere, fa intervenire il suo sangue anche per questa mia condanna in questo momento. Lavami, purificami, salvami, liberami. Mi arrendo a te, questo è il mio sacrificio di ringraziamento e di lode a te. Il riconoscere che io ho bisogno di te e che senza di te non sono nulla. Esaminiamo i nostri cuori in alcuni minuti di silenzio. Andiamo davanti al Signore con i nostri cuori.